Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Con 3 milioni di euro si potrebbero fare un sacco di cose migliori, no? Assolutamente, Chiara? Sì. Beh, abbiamo già dato un po' il giudizio, però fa niente. Lo sentirete già dai titoli di a che cosa si riferisce questo nostro commento. Benvenuti a Mebius, adesso i titoli appunto e poi iniziamo. Il controverso caso Stamina fa discutere anche di un altro tema importante. Bisogna accelerare i tempi per la sperimentazione dei farmaci? L'attività bioelettrica del nostro cervello rivela in maniera univoca se siamo sinceri o se stiamo mentendo. Questa macchina della verità è stata studiata da un team di ricercatori milanesi. Andiamo a vederla e la mostriamo pure a voi. È l'esperimento più recente sulla fusione fredda. Vi spiegheremo anche che di fusione in realtà non si può parlare. È qui con noi ospite questa sera Gilberto Colberlini, docente di storia della medicina alla Sapienza di Roma. Ma Gilberto, io e Chiara ti diamo anche del tu, sì, perché sei un editorialista, giornalista di scienza ormai stra impegnato. E poi ciao, benvenuto e bentornato, perché è già stato il nostro, sì, ospite parecchie volte. Sentiamo. Grazie, buonasera. Allora, abbiamo già espresso un giudizio nei primi secondi della trasmissione, ma vabbè, insomma, ci tocca. E chi ha sentito i titoli senz'altro avrà capito che ci interessiamo di questo caso Stamina, però ce ne interessiamo per un aspetto particolare che vedremo da poco e del quale si parla molto meno. Però insomma, all'inizio ti chiediamo brevemente, voi avete scritto un articolo per il domenicale del Sole 24 sì, Ore con un firma, titolo assolutamente chiarissimo, doppio imbroglio Stamina, l'hai firmato tu e Elena Cattaneo, che è una delle nostre migliori genetiste, sì, assolutamente sì, dell'Università degli Studi di Milano. Allora Gilberto, dai. Il problema è che qui si sono sentiti per mesi dei ragionamenti, degli argomenti da parte di chi ha difeso, ha sostenuto questo presunto medico, che se fossero portati da uno studente al primo anno di medicina verrebbe bocciato. Non di meno noi stiamo ragionando su un investimento appunto di 3 milioni di euro fatto su sostanzialmente un abbaglio, chiamiamolo così per il momento, fino a quando non si accerteranno alcune responsabilità e come si è arrivati a questo punto, e questo abbaglio appunto ci costa 3 milioni di euro, mentre ci sono decine di laboratori che stanno morendo e che non riescono a trovare finanziamenti per fare ricerche che avrebbero maggiore rilevanza sia per quanto riguarda la ricerca di base e anche per quanto riguarda le ricadute applicative. E rimanendo appunto molto rigorosi dal punto di vista scientifico, la parte forse più imbrogliata, che non si capisce bene, è proprio questa ricerca su queste cellule mesenchimali che appunto utilizzerebbe Vannoni, questo medico, che medico non è però, insomma, è uno psicologo, ecco, per cui non esiste base scientifica di come queste cellule possano in qualche modo rigenerarsi e diventare neuroni, cellule neuronali. Ecco, questa direi che dal punto di vista scientifico è la base su cui dobbiamo partire. Ma allora, questa è una sciocchezza, è scientificamente una sciocchezza, non ci sono prove di questa capacità di queste cellule mesenchimali di trasformarsi, ci sono semmai prove del contrario. E comunque noi stiamo parlando appunto di due personaggi per il momento, ma io ritengo che dietro a Vannoni e Andolina ci siano ben altre manovre in corso. Stiamo parlando di due personaggi che sono assolutamente improbabili dal punto di vista, diciamo, scientifico-clinico, perché insomma Vannoni è uno psicologo della comunicazione, si occupa appunto di comunicazione persuasiva e si vede che insomma almeno su questo ha una certa abilità, insomma, ecco, riesce a tenere, a menare per il naso purtroppo centinaia di pazienti, insomma, e questo fa tristezza, o meglio centinaia di famiglie, di persone che sono in gravi condizioni di salute, e questo fa tristezza, mentre invece francamente è grottesco e quasi comico che la stessa cosa riesca a fare con il Parlamento, con l'Istituto Superiore di Sanità, l'AIFA, il Ministero, tutti quanti che lo prendono come un interlocutore, mentre invece insomma io francamente sono stato invitato a un dibattito, ma non ho mai, cioè non accetto, ma perché devo dibattere con uno insomma che non ha nessuna competenza nel settore dove invece paventa di essere specialista e anche capace di fare e produrre cure. Però Gilberto, qui non c'è una procedura istituzionale da parte di chi appunto deve concedere fondi o dare autorizzazioni che si basi su una prassi consolidata per confrontarsi con una proposta scientifica. No, ma le procedure ci sono, perché abbiamo l'AIFA e l'AIFA è andata a fare un controllo su come venivano prodotti queste cellule. Questo controllo, diciamo, è stato fatto a tutti i livelli. I preparati sono stati inviati a un laboratorio che non ha trovato la presenza di alcuna cellula mesenchimale dentro questi preparati. L'AIFA ha emesso un'ordinanza che ha bloccato tutto, dopodiché sono intervenuti i magistrati. Il problema di questo paese è questo. Spiace dirlo, ma che diciamo l'autonomia della magistratura, l'autonomia del potere giudiziario, che è sacrosanto in uno stato di diritto e liberal democratico, in questo paese è intesa in modi piuttosto abnormi, insomma, perché i giudici si arrogano in qualche maniera il compito di stabilire se un trattamento deve essere fatto o meno, a prescindere da quelle che sono le indicazioni e le prove che vengono da ricerca. E a questa procedura che mi facevo riferimento, cioè la magistratura dovrebbe seguire coerentemente quello che l'autorità di controllo dice. Certo, ma la magistratura seguirà coerentemente questo soltanto quando i magistrati saranno chiamati a rispondere dei danni che procurano agendo in questo modo. Se questi magistrati che obbligano questi trattamenti rischiassero di essere poi a loro volta perseguiti, se questi bambini muoiono, oppure per i danni che vengono causati in termini di costi allo Stato, al sistema sanitario, io penso che questi magistrati ci penserebbero due volte prima di emettere questo tipo di sentenze, veramente, insomma, da paese dove davvero, insomma, qui non esiste una sorta di dittatura della magistratura. Insomma, capisco bene che in questo momento questo discorso apre anche tutta una serie di scenari politici, ma qui vediamo, insomma, degli esempi che possono essere abbastanza gravi. Va bene, noi adesso vogliamo proseguire con te il ragionamento sulla parte di cui si discute meno, che è questa appunto dell'abbassare i criteri di approvazione. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Stiamo discutendo con Gilberto Corbellini, che è qua con noi stasera, editorialista su tanti temi che riguardano medicina e biologia, ma anche docente di storia della medicina alla Sapienza di Roma, e stiamo discutendo del doppio imbroglio stamina. Ricordo il titolo dell'articolo che tu con Ella Cattane avete fatto sul Sole 24 Ore. Vediamo le ultime cose di questo paradosso, perché effettivamente c'è un passaggio proprio importantissimo anche dal punto di vista amministrativo. Insomma, la sentenza avrebbe creato veramente un disastro dal punto di vista sanitario, della pubblica sanità. Perché? Perché il precedente governo, quello tecnico, stava per votarla come cura compassionevole. Questo avrebbe creato ovviamente un guaio. Gilberto, chiediamo a te, insomma, di darci due dati. Diciamo che il ministro della salute attuale ha in qualche modo cercato parare il colpo con questa decisione di far la sperimentazione. Sì, questo ha a che fare un po' con diciamo la seconda parte del nostro articolo, cioè in sostanza quello che stava facendo il precedente governo con un ministro tecnico, tra l'altro, era di derubricare questi trattamenti in sostanza a trapianti e consentire poi, in particolare attraverso questo tipo di situazione, un uso già nei casi in cui questi erano stati autorizzati dai magistrati, e quindi in buona sostanza rapidamente questi tipi di trattamenti sarebbero diventati somministrabili e a carico del sistema sanitario nazionale, per cui a quel punto decine, ma anche centinaia o milioni di pazienti con gravi malattie non curabili avrebbero potuto accedere e chiedere di essere trattati con questo fantomatico metodo stamina al costo di circa 10.000 euro più giù di lì. Una voragine. Quindi il nuovo ministro quel che ha fatto è stato di riuscire a far passare quindi a non accettare questa derubricazione, quindi si tratta comunque di trattamenti avanzati che devono essere sottoposti quindi a tutti i controlli a cui sono sottoposti i farmaci, mentre nel caso dei trapianti non dovrebbero passare lo stesso controllo a cui sono sottoposti i farmaci, E quindi in sostanza questi 3 milioni di euro che speriamo, io spero che li risparmieremo, perché ormai sì, credo di sì, no? Non vedo proprio cosa si possa fare, ma questi 3 milioni di euro avrebbero di fatto salvato il sistema sanitario nazionale dalla bancarotta. Del male abbiamo scelto il minore. Sì. Allora, senti Gibello, tu poco fa, appunto, e anche nell'articolo, voi lo ricordate, hai aperto questo tema, cioè abbassare i criteri richiesti per l'approvazione dei trattamenti terapeutici avanzati. Sì. Allora, adesso lasciamo perdere le truffe. Sì. Effettivamente si è discusso ogni tanto del fatto che arrivano, no, come dire, dei prodotti, delle terapie che potrebbero avere un impatto importante rapidamente, e però l'iter di approvazione è troppo lungo. Allora si dice proviamo a vedere se si può abbreviare. E allo stesso tempo è vero, anche quando si parla di staminali, noi qui ne abbiamo sul banco in studio diversi articoli, circolano ormai delle informazioni, insomma delle cose che sono abbastanza interessanti per il cuore, per le cose che riguardano la sclerosi multipla, insomma sembrerebbe che effettivamente ci sia della sostanza buona. Com'è che la vedete voi questa cosa? Allora, la sostanza buona c'è e c'è stata. Le staminali del sangue curano da almeno dal 1968 una quantità di malattie. Ci sono delle staminali della cornea e della pelle che già sono utilizzate. Insomma, noi abbiamo in Italia un gruppo di ricerca che è tra i più avanzati al mondo, che è l'unico che ha dimostrato la possibilità e la fattibilità di fare una terapia a base di staminali, che è il gruppo di Michele De Luca all'Università di Modena e Reggio Emilia. Cioè loro veramente hanno dimostrato come si possono curare gravi malattie, ustioni degli occhi, insomma malattie anche genetiche della pelle, usando le staminali. Per le altre staminali non ci sono prove di efficacia. Ci sono, semmai, diciamo, alcune indicazioni di non pericolosità. Ora, quando si fanno le sperimentazioni dei trattamenti, soprattutto i trattamenti farmacologici, si deve passare attraverso le famose quattro fasi della sperimentazione clinica. Le fasi più importanti sono la fase 1, in cui si attesta la non pericolosità, quindi il fatto che questi trattamenti sono sicuri, non causano danni o effetti collaterali gravi pesanti. E la seconda fase è quella di accertare l'efficacia, cioè che queste cose qua non solo non fanno male, ma fanno anche qualcosa di bene e di buono per quella specifica malattia o per quella particolare condizione. Ora, il problema è che qui si vuole fare in modo che si possa già commercializzare, quindi vendere ai pazienti i trattamenti quando hanno superato la fase 1. Quindi questi trattamenti sono dimostrati innocui? Sono dimostrati innocui, dato che poi li usiamo su tutta una serie di malattie che sono malattie rare, ci sono pochi pazienti e quindi fare sperimentazioni cliniche, abbiamo i numeri bassi, non sono statisticamente significativi, poi in fin dei conti ogni paziente, insomma, alla fine quando qualcosa non gli fa male, insomma, perché lo vuole, no? È autonomo, se si vuole sottoporre, perché no? E quindi questo è un ragionamento. Tenete conto che ci sono 300 trial clinici in corso nel mondo con cellule staminali, mesenchimali, e ci sono dei forti interessi economici a, come dire, sdoganare questo tipo di trattamento, perché voi sapete, l'abbiamo visto anche attraverso una serie di trasmissioni televisive, che c'è un forte turismo delle staminali dall'Occidente nei paesi verso dove l'Oriente, certo. E in questi paesi cosa si fa? In sostanza si somministra della roba di cui non si sa neanche cosa c'è dentro, che non ha neanche passato la fase 1, eccetera. Allora il ragionamento non ufficiale, ma insomma che si legge tra le righe, è più o meno questo: ma scusate, perché andiamo tutti i paesi, eccetera, a dare i soldi ai cinesi, ai thailandesi, a Santo Domingo, eccetera, eccetera, quando invece potremmo fare le stesse cose che fanno quelli là e farlo noi? Che io francamente, insomma, in linea generale non è che abbia una obiezione, ma il problema è, diciamo, di principio. L'unica obiezione, insomma, che si può fare è che in questo modo, insomma, stiamo però aprendo a una deregolamentazione di dei trattamenti che poi possono effettivamente avere delle ricadute e dei costi dal punto di vista sistema sanitario abbastanza pesanti senza avere nemmeno dei benefici. Sì, scusa Gilberto, mi pare di capire che tu come altri diciate sì, potrebbe essere comprensibile anche, però per come stanno le cose oggi nel mondo, in quella direzione si apre una porta in cui tutto diventa immediatamente pericolosamente business oriented, insomma, no? Esattamente. Questo è il punto. Cioè, è vero che si potrebbe anche pensare a una cura compassionevole, però che cosa ci portiamo appresso? Siamo in grado di controllare quello che... È questo che dite? Assolutamente questo. Certo. E soprattutto... Il problema è anche che questo rischierebbe di, come dire, sottrarre, visto che ormai insomma la grande enfasi e eccitazione per la medicina traslazionale, cioè l'idea che si deve dare from the bed to the patient il più velocemente possibile, to the bench, to the bed, il più velocemente possibile, quindi al laboratorio, al letto del malato, qui il problema è che a perderci sarà sicuramente la ricerca di base, perché non si andrà più così attentamente a cercare, a studiare i meccanismi fisiologici che sono la base delle malattie, che sono la base dell'azione di alcuni di questi trattamenti, che quanto più si va nel complicato, tanto più sarà necessario conoscere, mentre invece si andrà e si tornerà a procedere molto per tentativo verso d'errore. L'ultimo step. Sì, esatto. Io ho questo risultato, mi promette bene nel topo, in un modello di malattia del topo, passo subito al paziente, prima ancora di aver capito perché funziona nel topo o da qualche altra parte. Se poi nel paziente non produce danni, la malattia è rara o piccola, qualcuno, la mamma o il papà, vedono che il bambino magari si muove un po' più veloce, perché poi c'è questo. Si muove un po' di più, un po' di meno, che sono soltanto sostanzialmente suggestioni, effetti placebo, sono tutti fenomeni che conosciamo, e lì si passa rapidamente a far girare, a far credere che siamo di fronte a un risultato importante. Poi ovviamente dopo 2 o 3 anni questa cosa scompare, nessuno ne parla più, ma intanto abbiamo perso tempo e probabilmente abbiamo speso soldi. Insomma, c'è una scarsa consapevolezza, io penso, da parte di chi governa un po' la politica della ricerca. Sì, da tanti soggetti e tante realtà che dovrebbero avere più attenzione. Tenete conto che c'è un attacco, organizzato in questo momento all'FDA negli Stati Uniti proprio su questo fronte. Cioè, ci sono delle figure, alcune di queste si muovono anche in Italia, e non se lo si può dire anche apertamente, perché lo scrive pubblicamente in tutti i suoi libri e anche nel sito The Cure Alliance che ha creato Camillo Ricordi, il quale sostiene questa tesi molto forte e critica da alcuni anni la Food and Drug Administration proprio perché ha questi rigidi vincoli anche su questi tipi di trattamenti cellulari che lui invece ritiene che dovrebbero possono essere snelliti. E Camillo Ricordi purtroppo si è espresso in Italia sorprendentemente, perché poi abbiamo a che fare con uno scienziato, con un medico, non è proprio uno scienziato, ne ricordi tecnico, sono un medico, un chirurgo, ma insomma che si è espresso sorprendentemente a favore del match, o quantomeno dicendo che il metodo Stamina andrebbe sperimentato esattamente, ed è sorprendente questo, francamente. Certo. Poi, alla fine questi qua che vengono in Italia e ci trattano un po' come una colonia, questo non è carino. Sì, abbiamo capito che insomma no, va bene. Snellire anche i tempi forse in questo contesto non è molto molto efficace. Sì, non ci sono un insieme di condizioni che possono andare. E allora diventa così un po' fastidioso il fatto che si parte esattamente da questo, no? Dicendo dobbiamo venire incontro al dolore, e però poi dopo si mette in moto una macchina che non siamo in grado di gestire. Sì, poi come se fino ad ora non si fosse fatto, non è che stavamo a dormire sugli allori, va bene. Gilberto Corbedini, grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. In quanti film appare la macchina della verità? Sì, sì, ora appare molto anche nei talk show, per mettere in difficoltà le persone, sì, insomma, le macchine della verità. Le macchine, perché le ce ne macchine. Sono tanti. Ce ne sono di tanti tipi. E proprio uno studio dell'Università Milano Bicocca, che è uscito in questi giorni su una rivista prestigiosa, Plus One, racconta di una di queste tecnologie utilizzate soprattutto nel campo delle neuroscienze. Adesso ci faremo raccontare da chi ha coordinato lo studio. Allora direi, non so se sei d'accordo, di dare il benvenuto ad Alice Mado Proverbio. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. E lei è docente di psicobiologia all'Università Milano Bicocca e avete appena pubblicato uno studio su quello che si chiama, dunque, una macchina della verità basata sull'imaging, sull'immagine di quello che succede nel nostro cervello. Ci racconti un po' meglio. Certo, noi siamo in grado di appunto misurare direttamente l'attività cerebrale mentre le persone quindi mentono, dicono la verità, osservando le variazioni dell'attività elettromagnetica cerebrale. I neuroni nel loro funzionamento normale comunicano mediante in modo biochimico e bioelettrico, alterando quindi a livello superficiale del capo i passaggi di corrente che noi siamo in grado di misurare con delle speciali cuffie. Quindi noi abbiamo un po' simulato quello che è una specie di interrogatorio, no? Ponendo centinaia e centinaia di domande di vario tipo a un gruppo di 25 studenti universitari per cercare di capire appunto come funziona il cervello, cosa fa il cervello quando uno mente o dice la verità. Dunque, per entrare nello specifico, voi facevate delle domande e loro sapevano di dire delle bugie. Com'è che avveniva la cosa? Ci spieghi bene com'era? Che tipo di domande? Allora, abbiamo inizialmente intervistato i familiari e i conoscenti, quindi che ne so, la mamma, il fidanzato di questi ragazzi, di questi giovani, per conoscere le loro caratteristiche personali, quindi per conoscere i loro gusti, per sapere le loro esperienze infantili, quindi cose anche molto private che solo la mamma o solo la fidanzata può sapere, no? Allo scopo di conoscere proprio quello che per quella persona è la verità, quindi è vero, io sono stato in India, è vero, quando ero piccola mi ha morso il serpente, no? Sì. Queste sono domande di tipo che fanno parte della memoria cosiddetta episodica, sì, soggettiva. Ma anche poi, che ho picchiato Luigino. Esatto, anche che ho picchiato Luigino. Beh, nella misura in cui la mamma e la fidanzata certo, sono venuti a saperlo. Certo. Poi ci sono delle cose che nessun altro se non noi sappiamo. Sì, però insomma qualcosa di un po' vabbè, segreti, problematico. Vabbè, qualcosa sì, ci segreti voleva. Possono essere ancora conservati. Vabbè. Per cui noi chiedevamo queste cose un po' private e anche tante informazioni che fanno parte della memoria cosiddetta semantica, cioè cose che tutti condividiamo, del tipo è vero che Washington è la capitale degli Stati Uniti, che ne so, è vero che i daini non vivono nel deserto, ecco. Quindi noi sapevamo qual è la verità intrinseca, cioè ciò che è vero e ciò che è falso. No? E loro cosa rispondevano? Cioè dovevano rispondere per forza la verità o dovevano sapere di mentire? Loro in un caso dovevano dire per forza la verità e noi sapevamo benissimo qual era la verità, quindi siamo in grado di capire le risposte del cervello quando una persona è sincera. In un altro caso invece dovevano mentire e anche lì noi sapevamo se stavano mentendo, se stavano effettivamente dicendo la verità. E poi confrontavate le mappe? Sì, la manipolazione più importante del nostro studio, che lo rende appunto particolarmente diciamo, utile per la ricerca neuroscientifica, è che noi abbiamo posto i nostri soggetti in una situazione emotigena, appunto per simulare un vero interrogatorio. In una parte dell'esperimento le domande erano abbastanza delicate, cioè riguardavano, che ne so, la sfera sessuale o cose un po' disgustose, intime, di cui non si vorrebbe certamente parlare con un estraneo. Ci faccio un esempio, io sono curiosa. Faccio un esempio di domande. Non si imbarazzi, ne faccio una, no, perché poi ci sono, sai, comitato etico che ha approvato. Vabbè, però dobbiamo capire. Sì, certo, per esempio su condotte sessuali oppure su anche cose, cioè c'era un gradiente, cose abbastanza di rilievo moderato, per esempio, hai mai messo le dita nel naso? Ecco. Effettivamente tutti abbiamo messo le dita nel naso, però fatto stesso che uno ce lo chiede, insomma è un po' fastidioso, giusto sì, ammetterlo, no? Sì, sì. E sì. Cose effettivamente invece che si presume che una persona non abbia mai commesso, per esempio, hai mai torturato a morte un bambino? Ecco. No? Queste sono cose naturalmente che agitano molto di più. Allora, domande di questo tipo, quindi, che fanno parte della categoria domande agitanti, no? Quindi abbiamo confrontato l'attivazione del cervello in una situazione in cui una persona è ansiosa, ha paura, è agitato, è imbarazzato, allo scopo di attivare il sistema nervoso autonomo che controlla il battito cardiaco, la respirazione e la sudorazione. Che sono le cose che vengono misurate dalla famosa macchina verità, esatto, che noi vediamo nei film. Sì, esatto. Ecco, quindi noi abbiamo avuto dei parametri relativi alle emozioni che possono contaminare le risposte della macchina verità, della verità in una persona anche innocente che è accusata ingiustamente. Quindi il pericolo della macchina verità è quello che una persona venga ritenuta colpevole perché i suoi parametri fisiologici dimostrano che è agitato e impaurita. In realtà ha paura di non essere creduta. E in questo caso quindi le due macchine agivano, diciamo, insieme e erano abbastanza uniformi i risultati? Cioè... Allora, abbiamo scoperto innanzitutto che c'è un marker, possiamo dire un indicatore, che inequivocabilmente, sia se una persona è agitata, paura, imbarazzata, sia se una persona è tranquilla, inequivocabilmente ci dice che questa persona sta mentendo. No? Ah. E questa è la famosa N400, cioè un indicatore del fatto che sono attive nel cervello le strutture che ci consentono di mentire. Ho capito. Dopodiché, questa quindi è la prima volta che viene scoperto, cioè noi siamo in grado di leggere la mente, nel senso che il cervello di quella persona ha riconosciuto qual è la verità e poi ha deciso di mentire. Questo è un marcatore. L'altra scoperta fondamentale è che se invece uno va a vedere solo l'effetto delle emozioni, quindi battito cardiaco, sudorazione eccetera, le persone che dicono la verità a domande che mettono in agitazione vengono confuse con quelle che invece stanno mentendo, ma sono due indici che noi abbiamo osservato separatamente, nel senso che ci sono due cose che controllano la nostra mente: il sistema nervoso centrale, cioè il cervello, e il sistema nervoso autonomo, che riguarda anche le emozioni. Sì. Quindi la sudorazione, il battito cardiaco, la respirazione sono controllate dal cervello, ma non sono il cervello, no? Risentono degli effetti della mente. Quindi noi abbiamo potuto misurare la mente, come vengono rappresentate le conoscenze. Se io so che Washington è la capitale degli Stati Uniti, posso dire quello che voglio, posso mentire, ma nel mio cervello è risiede questa informazione che io posso riconoscere esternamente. Dopodiché, se io invece se mi fanno delle domande imbarazzanti, a livello periferico si produce un'alterazione che è dovuta quindi alle emozioni. Abbiamo scoperto che ci sono queste due componenti. Il problema è che la macchina della verità non va a misurare la mente, va a misurare gli effetti a livello corporeo, va a misurare la sudorazione, il battito cardiaco e la frequenza respiratoria. Ed esistono metodi di questo tipo, appunto, con entrambe i parametri per incrociare e nella realtà, cioè vengono utilizzati davvero, ad esempio, per risolvere casi, non so, particolarmente gravi, di omicidio? In Italia forse no, ma mi viene da pensare negli Stati Uniti? Allora, negli Stati Uniti per la prima volta è stato usato, non questo naturalmente perché l'abbiamo appena scoperto noi, ma è stato usato un sistema per cui si riesce a capire se una persona ha già visto una certa cosa, cioè riconosce un'informazione, che è una cosa diversa, cioè non si misura la menzogna, ma si misura il riconoscimento di una certa informazione. È stato usato solo recentemente, appunto, in due casi di omicidio. In un caso la vittima è stata riconosciuta colpevole, l'accusato è stato effettivamente riconosciuto colpevole, in un altro caso invece è stato riconosciuto innocente. Ah, grazie al test? Grazie a questo sì, perché negli Stati Uniti viene data vengono considerati questi, diciamo, questi studi scientifici utili proprio a livello giuridico, mentre ovviamente in Italia la giurisdizione è completamente diversa, è assolutamente illegale una cosa del genere. Ecco, in Italia questo tipo di sistemi non potrebbero essere utilizzati. Assolutamente, ma lungi da noi, cioè noi siamo neuroscienziati e diciamo il nostro obiettivo non è minimamente legato a questa sfera giuridica. Noi siamo interessati a capire come sono rappresentate le informazioni nel nostro cervello e anche questa particolare abilità di mentire, che è una straordinaria abilità che hanno solo gli esseri umani. I primati non sono in grado di mentire, è un'abilità estremamente sofisticata che si sviluppa solo in un cervello che possiede una corteccia prefrontale sviluppata, quindi ovviamente il nostro interesse è puramente neuroscientifico. Certo, però ci fu un caso un paio d'anni fa in India, mi ricordo, con una donna sotto accusa per un omicidio, se ne parlò molto anche su giornali di scienza e lì si arrivò a utilizzare questo indicatore, magari molto grezzo, però insomma, per stabilirne la colpevolezza, viene utilizzato dalla giuria. Ma è come negli Stati Uniti, allora. Sì, certo, è possibile stabilire, per noi sarebbe facilissimo, per noi nel nostro laboratorio è facilissimo, noi lo facciamo tutti i giorni perché appunto studiamo queste cose. Io sono in grado assolutamente di dirle se lei le mostra una fotografia che, di un suo amico, per dire, io so assolutamente se lei questa persona l'ha già vista, la conosce o non l'ha mai vista, è molto semplice. Nonostante magari lui possa dire che esatto, non la conosce, non l'ha mai vista. È molto certo. Semplice perché noi misuriamo il modo in cui il cervello riconosce le facce, i posti, le case, qualunque cosa, e sappiamo perfettamente certo. Distinguere la risposta cerebrale a un evento, una cosa nuova mai vista rispetto a quella vecchia. Sì. Sono cose nelle neuroscienze abbastanza comuni. Il salto, il passaggio da utilizzare queste diciamo nozioni neuroscientifiche a livello giuridico naturalmente è un altro discorso. È un discorso. Beh, però il passaggio diciamo dovrebbe essere brevissimo, nel senso che se voi ritenete che effettivamente questo strumento sia altamente attendibile, diciamo c'è poco da discutere. Sì. Il problema è se vi si crede o no. Allora, lo scienziato naturalmente crede che ciò che ha pubblicato su una rivista scientifica sia assolutamente, per quanto la scienza naturalmente non è mai certa, no, certo, no? È sempre però lo scienziato è sicurissimo di aver fatto qualcosa di statisticamente efficace. Valido. Dopodiché sono altre persone che possono avvalersi di queste conoscenze, ma il neuroscienziato non ha scopo, no? Certo. Quindi la nostra è anche giusto che ci siano delle divisioni, cioè che non ci siano secondi fini, che non ci sia un mescolamento, certo. Perché lo scopo della scienza è quello di acquisire conoscenze in generale. Sì. No? Poi se altre persone decidono di avvalersi, non siamo certo noi, scienziati. Sì. Però spesso qui a Mebius parliamo del ruolo della scienza all'interno della giurisprudenza, della legge, eccetera, sì. Perché qualcosa si sta muovendo. Certo. Diciamo che nel campo della psicopatia, naturalmente, il cervello dello psicopatico, per esempio, è abbastanza diverso da quello del non psicopatico, per cui soprattutto negli Stati Uniti appunto sono tantissimi gli studi che dimostrano alterazioni a livello neurochimico, di connessioni, di attivazione cerebrale. Dopodiché anche in quel caso lì, qual è la causa, qual è l'effetto, cioè una persona è diventata psicopatica, è nata in quel modo perché aveva delle alterazioni cerebrali o lo è diventata, e poi soprattutto è qual è la sua colpa soggettiva, capito? Perché se si ritiene che il marker della psicopatia sia legato a come è fatto il cervello di una persona, automaticamente una persona diventa non colpevole soggettivamente. Io sono psicopatico perché il mio cervello è così. È una questione molto delicata, molto e che delicata. Quindi complessa, non possono certo affrontare. Noi possiamo misurare, possiamo avere degli indicatori, dei marker, ma poi problemi di responsabilità giuridici. Certo, poi di disturbi psichiatrici, certo, è molto diverso. Bene, direi che abbiamo ben descritto il problema, dopodiché se ne apre uno molto grosso, che ancora vuol dire passare dai laboratori alle inchieste e ai tribunali. Grazie e buon lavoro. E buona ricerca. Grazie mille, arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Bene, Maurizio Menis, andiamo a vederla, sì o no? Vorrei anche ben vedere, sì, ci andiamo. Allora, forse qualcuno ricordandosi i titoli della trasmissione ha già capito che stiamo parlando della fusione fredda, però specifichiamo, il 22, collegandosi al sito di Radio 24, si vedrà in home page un link e da lì si potrà accedere a uno streaming che organizziamo per andare a vedere, come dire, l'ultimo esperimento, un ultimo step in questa vicenda della fusione fredda. Entreremo in un laboratorio dove è in atto questa reazione e commenteremo quello che vedremo con quelli che la stanno realizzando, ma di questo ne parliamo fra un po', no Maurizio? Nel senso che prima probabilmente è meglio vedere un po' questa storia. Poi ci sarà lo streaming, vi invitiamo. Sarà verso mezzogiorno del 22, ma insomma non entro adesso nei dettagli. Quando andrete all'home page di Radio 24 potete capire esattamente come collegarvi. Allora Maurizio, qui il problema qual è che andiamo, e qui siamo molto contenti di farlo vedere anche al largo pubblico, siamo in un ulteriore esperimento, un ulteriore demo di questa lunga e complessa vicenda della fusione fredda, che certamente è stata anche è circondata, è incorniciata da un sacco di cose storte, no? Che sono state fatte male dagli stessi soggetti. Però io e te, no? E soprattutto tu l'hai seguita molto da vicino, volevamo dedicare adesso una parte significativa di questo spazio radiofonico, ce ne sarà uno dopo, dopo lo streaming, per commentare in modo più largo, volevamo dedicarlo un po' a ragionare sugli aspetti tecnico-scientifici di questa storia. Sì, sì, sì, appunto, perché questa vicenda può essere vista da due prospettive molto, molto diverse. Sì. Quella largamente maggioritaria di chi considera la fusione fredda addirittura un emblema delle frodi scientifiche. Parliamo naturalmente delle vicende del 1989, Fleischmann e Pons, l'annuncio, poi la smentita di questa reazione, che sarebbe qualcosa di abbastanza rivoluzionario. E poi c'è un mondo della ricerca che invece da più di 20 anni va avanti e che quotidianamente fa esperienze, esperimenti, fa anche qualche pubblicazione, tutto sommato, in cui appunto quotidianamente sperimenta l'esistenza di alcuni fenomeni che insomma oggi non si riescono a spiegare incorniciandoli, diciamo, nelle conoscenze di fisica classica attuale. Questo è il punto. Se vuoi provo a spiegare in modo estremamente specifico, perché qui non è che parliamo esclusivamente della fusione fredda. La fusione fredda sarebbe una delle manifestazioni di un ramo, diciamo, della fisica rimasto inesplorato, in cui potrebbero essere presenti, ricadere alcuni fenomeni nuovi come questo, come la fusione fredda, e in cui anche dei fenomeni già noti potrebbero trovare invece una chiave di lettura diversa. Allora, il punto è se possono esistere delle reazioni di tipo nucleare, quindi delle trasmutazioni, per esempio, no? Un elemento che diventa un altro elemento, sì, oppure delle emissioni di radiazioni nucleari, appunto, come i neutroni, in materiali che non sono radioattivi per loro natura e tantomeno materiali che si trovano nelle condizioni estreme in cui si trovano invece, in cui avvengono le reazioni di fusione nucleare, quelle che alimentano il Sole, no? Oggi sì, non esiste una cornice teorica che possa spiegare reazioni nucleari fuori da questi due settori, da questi due grandi, no? Radioattività da una parte, bene o male, e dall'altro la fissione e quant'altro, e dall'altro la fusione nucleare che avviene con violenza ad alte temperature. Sì, sia la fissione che la fusione sono fenomeni nei quali c'è implicata un'energia impressionante, no? Un'energia impressionante che è la tipica scala di energie del nucleo dell'atomo, che certo, è 6 ordini di grandezza, quelle, diciamo, quello della scala chimica, milioni di volte di più. Più potente. Questa è la differenza che c'è in gioco. Che no? Quindi quello che però tu dici non è che, perché noi abbiamo deciso di essere sempre avvocati del diavolo in tutte le direzioni, sì, non stai dicendo quindi è chiaro che la fusione fredda è una cosa che c'è, stai soltanto facendo un'analisi però di un contesto generale di ricerca nel quale effettivamente abbiamo degli indizi per cui questo tipo di fenomeni andrebbero presi in considerazione seriamente come fa la ricerca. Diciamo che io quella che faccio è una distinzione fra quello che può essere un giudizio dato, per esempio, all'ICAT di Andrea Rossi o all'apparato di Defcalion o alla cella Piantelli. Ricordiamoci che Francesco Piantelli, questo per dire che c'è tutto un movimento in questo momento, che è uno, diciamo, dei protagonisti storici della ricerca sulla fusione fredda, che a sua volta lavorò con Focardi prima di Andrea Rossi. Sono tutti nomi che sono, adesso esatto, poi magari li ricordiamo un po'. Questa strana vicenda, sì, la fusione dell'apparato a fusione fredda, questo signore ha presentato un brevetto europeo e gli è stato accettato a inizio gennaio, quindi c'è un brevetto di una cella a fusione fredda, sì, depositato in Europa e riconosciuto, certo, riconosciuto come valido. No, ecco, io volevo dire, un conto è quello che dichiarano di ottenere i vari Andrea Rossi, e adesso vediamo, e dintorni anche questi ultimi che andiamo a vedere, faranno, che dichiarano di avere addirittura un controllo sufficiente da produrre delle reazioni utilizzabili in maniera commerciale, cioè, nelle caldaie. Ecco, che loro Allora, un conto è questo, e un conto è negare totalmente l'esistenza di tutta quella classe di fenomeni. Certo, certo. Ecco, qual è Maurizio, il problema, però, che molti, come dire, sono talmente convinti che quei fenomeni siano inesistenti che naturalmente partono convinti di avere a che fare con degli imbroglioni, non gli danno neanche il beneficio del dubbio. Oh, ecco. Allora, qui apri un'altra cosa e andiamo mano a mano verso la conclusione di questo spazio, poi appunto, come ho detto, ne riparleremo. Il problema è che certo questa cosa è nata in modo disgraziato. Fleischmann, che era un grandissimo chimico, era assolutamente, come dire, in ansia perché pensava che qualcheduno gli fregasse questa cosa, e iniziò questa storia della fusione fredda con loro che, invece che di parlare con un articolo su una rivista scientifica, fecero una conferenza stampa col Wall Street Journal. Quindi una procedura totalmente folle, anomala, e quindi c'è quest'ombra anche su Rossi, che è quello che negli ultimi anni ha rilanciato completamente la cosa. Certo, è un personaggio coinvolto in alcune cose che non riguardano la fusione fredda, riguardano altro. Sì, nelle quali c'era, che comunque fanno che c'erano delle truffe. Allora, c'è questo contesto. Allo stesso tempo, però, non so se sei d'accordo, e appunto facciamo sempre il pelo a tutti, allo stesso tempo però non sorprendiamoci del fatto che ci siano delle cose che non vengono rivelate quando c'è di mezzo grande business, perché questo c'è sempre stato nella ricerca scientifica e tecnica. Non è vero che si fa vedere tutto e poi dopo, no, ci sono fior di sbarramenti, e poi quando la cosa funziona si incomincia a ragionare anche perché, no? Ricordiamoci gli enormi interessi che ci sono. Quando una tecnologia non è ancora arrivata a fine vita, nessuno ha voglia di tirarne fuori una nuova, per esempio. Certo. Ricordiamoci anche una parte significativa del mondo della ricerca lavora su oggi sull'energia, ma su tutto tranne che su quel settore, quello che andrebbe chiamato chiamando col suo nome, quello delle reazioni nucleari a bassa energia, o delle scienze nucleari della materia condensata. Questi sarebbero i nomi corretti. Fusione fredda e forse dovremmo anche cercare di abbandonarlo. Non va bene fusione, sì, bisogna parlare low energy nuclear reaction, dicono, cioè reazioni a bassissima energia, un'altra roba. Però questo è quasi un problema, diciamo, di terminologico di definizione. Però voglio dire, abbiamo altri esempi, perché cosa dice poi la gente? Vabbè, però qui se non si capisce, se non c'è una teoria, vuol dire che c'è un trucco. Ma no, ci sono stati un sacco di casi di Marconi, quando voleva brevettare le onde Marconi e non aveva minimamente l'idea di come le sue onde si rimbalzassero, sì, no? Sull'atmosfera. L'aeroplano volava prima che si sapesse perché lontanissimi perché la macchina a vapore andava prima che arrivasse Carnot a spiegare la macchina a vapore. Le lenti si usavano per fare gli occhiali prima dell'ottica. Sì, siamo pieni di queste storie. Siamo pieni zeppi di queste cose. Sì, ciò detto, anzi, ma potrei dire, potrei spararla anche un po' più grossa se proprio vogliamo. Ecco, cioè. A fine 800 si diceva la fisica era finita, da due esperimenti abbastanza semplici, sommato, che però non tornavano, sono venute fuori da una parte la meccanica quantistica e dall'altra la teoria della relatività. Queste cose succedono. Succede che a volte un esperimento, una roba che apparentemente è di dettaglio, è una specie di fessura che poi quando la allarghi scopri che di là c'è un sacco. Un altro pianeta. Ed erano grandissimi fisici alla fine dell'Ottocento che dicevano nel senso che noi andiamo soprattutto per gli ascoltatori, e che diventeranno telespettatori, quindi andiamo assolutamente, come dire, super paste. Ci hanno chiesto vogliamo portare qualche nostro anche esperto per vedere la cosa, ci stiamo pensando, lì vi racconteremo, intanto vi facciamo vedere com'è il marchingegno, quindi lo vedrete bene per la prima volta, faremo delle domande, cercheremo anche di capire, come dire, di descrivere, questa è una cosa che si capirà soltanto durante lo streaming, insomma, di descrivere come dovrebbe essere questo trucco, no? Perché si parla di trucchi in tanti modi, certo. Anche dicendo qui c'è un grandissimo imbroglio, però certo, una truffa completa è difficile, non entriamo dentro adesso nel particolare, però commenteremo anche il fatto che certi trucchi si possono fare, altri il contesto sembrerebbe impedirli, ma non andiamo certo a dire che il gioco è fatto, che la soluzione è pronta. Naturalmente non siamo io e te che possiamo stabilire l'esistenza o meno di una nuova classe di reazioni nucleari, questo sicuramente. Poi non è che le truffe non siano mancate in passato, ci sono tante persone che comunque hanno venduto, pensate al tubo Tucker, no? Quello che attaccavi e ti moltiplicava l'energia di una caldaia miracolosamente. Sì. Ci sono state e ci sono in continuazione, quindi occhi aperti. Però in questo caso abbiamo un'azienda greca, si chiama Defkalion, che molto pianamente dice: noi siamo piuttosto vicini a fare proprio una caldaia. Quindi se la dicono proprio e ce la dicono con estrema sicurezza. Insomma, andiamo a vedere e raccontiamo questa cosa e poi la ricommenteremo dopo che l'abbiamo vista sempre qui a Möbius in una, credo, l'ultima settimana di luglio. Grazie Maurizio, e allora ricordo, andate al sito della radio e troverete il 21-22, insomma ci sarà visibile in home page un link per assistere a questo streaming. Grazie Maurizio, ciao. Ciao. Parlando di fusione mi sono perso la Chiara che era qui con me, però vi saluto anche lei, vi saluto anch'io qui fra 7 giorni a Möbius. Buona settimana a tutti.